Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Un gradito ritorno, Luca Dello Iacovo, direttamente dal Sudafrica. Buongiorno. Ti piace la sigla? Beh, sì, è incisiva, però. Non ti piace? Distratto un attimo, tac, abbiamo cambiato la sigla perché siamo fatti un po' così. Oggi torniamo a parlare di temi a noi cari, di temi che ci renderanno bene, insomma, cioè mi sento buono quando faccio queste puntate. Parliamo di fundraising, di fundraiser. Chi sono? Sono quelli che raccolgono i fondi e sono quelli che danno, possono quindi animare il settore del non profit che ha bisogno appunto di risorse, ed è un mondo in crescita. È un mondo nuovo, in crescita, noi andiamo a spaccare il capello in due, a cercare di guardarci un po' dentro, ma prima le news. I social network moltiplicano i canali per raccogliere fondi su internet. Sono accessibili a piccole e grandi organizzazioni non profit e diventano uno spazio per coinvolgere il pubblico nelle donazioni. Facebook, per esempio, ha successo per la comunicazione con la base dei sostenitori e dopo l'emergenza di Haiti ha contribuito alla raccolta di fondi. Il programma alimentare della FAO ha ricevuto 740.000 euro attraverso un videogioco del social network. Anche i microblog di Twitter sono diventati un canale per stimolare le iniziative. Finora hanno funzionato soprattutto negli Stati Uniti, ma i finanziamenti raccolti sono limitati. Internet inoltre aiuta gli imprenditori nei paesi in via di sviluppo. Il social network Kiva finanzia piccole aziende nelle nazioni emergenti, riceve prestiti e donazioni attraverso il web e in 5 anni ha investito 135 milioni di dollari. Allora, non era uno scherzo, abbiamo sbagliato noi, quelle che sono andate in onda non erano le news, erano un po' troppo seriose per essere le news, ma era la, che cosa? La scheda sul fundraising in particolare. Sul fundraising in internet, quindi sulle possibilità di raccogliere dei fondi attraverso internet, attraverso i social network, che è un po' la frontiera, che però è diciamo, una parte emergente di quello che sta succedendo adesso, ma esiste una tradizione della raccolta di fondi attraverso internet, una tradizione con consolidata che le organizzazioni non profit sono riuscite a valorizzare, e infatti abbiamo con noi il professor Valerio Melandri, che è il direttore del Master in Fundraising dell'Università di Bologna, che abbiamo in collegamento. Valerio Melandri, c'è? Buonasera a tutti. Allora, tra l'altro oggi, lo diceva anche la scheda, parte il festival, se non sbaglio. Sì. Parte il festival del fundraising, che è un grande evento in cui 700 persone si riuniscono per 3 giorni a Castro Carterme per parlare, discutere e ragionare di fundraising. Allora, io ho qui davanti a me un articolo del Sole 24 Ore in cui si fa un po' il censimento del mestiere del fundraiser. Leggo che sono quota 100.000 persone, la maggioranza è donne, diciamo che 10.000 persone, la maggioranza donne. Era un po' il vecchio ruolo dell'attivista, no? Che adesso è diventato un mestiere, una professione ben strutturata. Sì, è decisamente qualcosa che può dare lavoro professionalmente a molte persone. C'è un mondo che ruota intorno al fundraising, dalle lettere al copyright, alle telefonate, ai faccia a faccia. Insomma, c'è un mondo che sta cercando soldi per sostenere le cause. E lo fa anche attraverso internet? Lo fa anche attraverso internet. Devo dire che altri paesi sono più avanti di noi, però soprattutto internet è molto utilizzato nei casi di emergenza, perché quello che conta nei casi di emergenza è la velocità del dono, la velocità della richiesta e la velocità di offerta. Quindi avere internet e essere molto presenti su internet facilita l'arco. Ecco, ma che cosa funziona bene su internet per un'organizzazione non profit che vuole raccogliere fondi? Quali sono gli strumenti più adatti e più efficienti? Oggi c'è un grande utilizzo dei social network, non li elenco perché tutti quanti li conosciamo. Però un conto è far suonare la musica, un conto è far pagare il biglietto. Quindi non bisogna mai confondere due mestieri, il marketing è molto bravo, le relazioni sono importanti e quindi è importante avere questi strumenti, esserci, farsi conoscere, farsi riconoscere, ma alla fine il fundraiser è chi fa pagare il biglietto quando si entra a vedere lo spettacolo, e nei social network questo non è così semplice. Insomma, c'è paura di che cosa? C'è paura, insomma, che su Facebook, sulle più importanti reti sociali passi un po' il messaggio, passino dei fake onlus, dei fake raccoglitori, fake nel senso di falsi, di raccoglitori falsi di fondi? Beh, questo sicuramente è un rischio che per la verità è molto più ridotto rispetto alla realtà, cioè si parla moltissimo delle mele marce, ma in realtà nel mondo non profit sono ben poche le organizzazioni non profit che fanno questo tipo di raccolta. Ma il punto fondamentale è che è proprio un ambiente di tipo diverso, nel senso che quando io sono al cinema, mi godo il cinema, è diverso da quando sto per entrare al cinema. Per cui il social network non ha proprio l'atteggiamento giusto per raccogliere fondi, tant'è vero che se voi guardate sostanzialmente il budget su internet di raccolta fondi per le grandi organizzazioni ruota intorno all'1 al 2% del totale raccolto, quindi è ancora qualcosa di assolutamente residuale. Viceversa, in caso di emergenze, il veicolo privilegiato, il veicolo in assoluto migliore per raccogliere fondi è proprio la via internet, la via social network, la via e così via. Lei faccia i conti molto velocemente che dalle prime emergenze, 11 settembre, Catalina, tsunami e così via, il totale del raccolto era intorno all'11, al 20%, al 25% di quando in totale avremmo raccolto. Viceversa adesso il totale del raccolto sulle nuove emergenze supera il 75-80%, quindi internet è un grande strumento per essere veloci. Quindi è uno strumento che tocca l'emotività, è uno strumento che tocca l'immediatezza dell'emergenza. È assolutamente questo il punto, è uno strumento con cui tu incontri il donatore incidentale, incontri il donatore, il try donors noi lo chiamiamo, il donatore che prova, e quindi se tu sei bravo, dopo che lui ha alzato la mano per una volta, a coccolarlo, a coltivarlo, è un enorme strumento per abbassare i costi di acquisizione del donatore. Quindi serve per esplorare, diciamo, per raccogliere e per catturare l'interesse di nuove persone, oltre quelle che sono già la base di quelli che partecipano alla raccolta di fondi, quindi di quelli che sono i donatori più tradizionali. Quindi c'è da un lato il donatore tradizionale, che è quello che già fa parte di un'organizzazione non profit, e dall'altro poi i nuovi che arrivano attraverso internet. Sì, guardi, il metodo di acquisizione classico è sempre stato nel mondo non profit il mailing, cioè le lettere o le telefonate. Questo costo, il costo del mailing e delle telefonate oggi è troppo elevato, e quindi le organizzazioni non profit non hanno più economicità a raccogliere attraverso questi mezzi, e molti si stanno trasferendo, come diceva giustamente lei, verso sistemi di acquisizione di nuovi donatori che sono quelli classici di internet. Ma voglio dire, quando io acquisto, non faccio nomi di marche pubblici di aziende, però quando io acquisto un libro su una certa azienda che vende libri su internet, poi qualche settimana dopo mi arriva l'uscita del nuovo libro simile a quello che io ho comprato. Cosa ho fatto? Ho alzato la mano, ho fatto sapere che mi interessa quell'argomento, e loro iniziano a coccolarmi in questo senso. Se noi fossimo bravi a coccolare coloro che sono entrati per un certo motivo incidentale o in prova, sarebbe fatta. Ecco, tante organizzazioni non profit hanno delle dimensioni piuttosto ridotte. Quali sono gli errori più frequenti che compiono nella raccolta dei fondi, tenendo conto appunto delle risorse limitate di tempo e di denaro? Lo scambiare il fundraising per un evento, lo scambiare il fundraising per una cosa una tantum. Il fundraising o è un processo in cui io inizio a coltivare il donatore, a sensibilizzarlo e piano piano a sollecitarlo, passo dopo passo, oppure è soltanto una perdita di tempo, va bene come è stato fatto fino adesso, non inventiamoci chissà quale costi o strumenti aggiuntivi. Bisogna mettersi in testa che non è possibile che io possa fare fundraising a Natale mandando una lettera per favore dateci dei soldi. Ma occorre iniziare a praticare tecniche che sono le stesse tecniche che si applicano nel mondo profit, in cui piano piano il donatore viene avvicinato alla causa, perché l'obiettivo del fundraiser è sostanzialmente questo: sensibilizzare, coltivare, far avvicinare il più possibile il donatore alla causa. E non è un tentativo di nascondergli cose particolari o di fargli conoscere cose diverse da quelle che sono in realtà, è semplicemente il tentativo di cogliere la sua attenzione. Ecco, e gli italiani sono generosi, sono dei donatori generosi? Gli italiani sono assolutamente generosi. Il dato che ci ha impressionato è che tranne il caso dell'Aquila, che ha drenato le risorse quest'anno, sostanzialmente la donazione ha tenuto anche in periodo di crisi economica. Ma com'è fatto il donatore Italia? Cioè, gli identikit sono sempre antipatici e sono sì, poco realistici, ma in che cosa siamo diversi o in che cosa siamo simili agli altri da questo punto di vista? Agli altri paesi, dice? Sì. Sostanzialmente il donatore, c'è uno zoccolo duro di donatori, le cui principali caratteristiche sono il fatto che faccia volontariato o il fatto che sia religioso. Quindi questi due gruppi di persone donano un po' di più, chi fa volontariato, chi è religioso, degli altri in media, che non vuol dire niente perché la statistica non sa meglio com'è. Sì, in generale donano di più le donne con una certa età, quindi non giovanissime ma nemmeno anziane, sopra i 50 anni, donano le donne sposate con figli, donano le donne che hanno fatto professioni sociali o che hanno avuto la fermo su questo punto, uno perché sono anche interessato a capire il perché è strano, ma anche perché dobbiamo dare la linea al traffico. Nova Lab 24. Rieccoci in studio, siamo in collegamento con Valerio Melandri, direttore del Master Universitario in Fundraising, che ci spiegava, cioè, ha provato un po' a tratteggiare quello che è l'identikit del donatore italiano. Insomma, è venuto fuori che è una donna sulla mezza età. Sbaglio? Sì, ovviamente questo qui è uno zoccolo duro, nel senso che va un po' bene sul, cioè, tutto. Vi siete chiesti il perché, cioè come mai? Cioè, senza avere nulla contro le donne di una certa età, però cioè, era capire, cioè, è particolare, strano, su via. Ma sostanzialmente le donne sono statisticamente parlando, adesso non vorrei cadere in impasse gravi, sostanzialmente le donne sono persone che sono molto più interessate al sociale nella maggior parte dei casi, che sono interessate alla comunità, al mondo, quindi molto di più che l'uomo cacciatore. Ovviamente questa è una semplificazione perché siamo in tempi molto veloci. Ci sta, è sostenibile. Come però ragionamento è questo qui, la donna è da sempre persona più generosa, persona più attenta, più... Cioè, io se penso a mia moglie, quando entriamo in una conferenza, lei è capace di scannerizzare tutti i partecipanti dicendo quello lì ha litigato con la moglie, quello lì ha fatto questo, quello lì ha fatto quell'altro, così. Io molto di meno, vado diretto dal conferenziere, ecco. Va bene, noi adesso, tra l'altro è appena arrivato Pierangelo Soldavini, vice caporedattore di Nova 24, buongiorno. Buongiorno a tutti. Luca Dell'Oiaco, che è appena tornato dall'Africa, ha scritto una scheda che andiamo a sentire, che fa un po' il punto invece del no profit invece che fa profitto. Sì, è di quelle imprese sociali che riescono a realizzare un profitto e a fare del bene. Sentiamo. Gli aiuti versati all'Africa sono inutili e dannosi. È la tesi di Dambisa Moyo, un economista dello Zambia laureata all'Università di Oxford. Non si tratta di una voce isolata. La Fondazione Bill e Melinda Gates investe in settori alla frontiera della ricerca scientifica nei paesi emergenti: energie rinnovabili, internet, salute. Alcune organizzazioni non profit internazionali puntano sulla crescita dell'imprenditoria sociale, diventano terreni per l'innovazione, ambiente, solidarietà, accesso alle risorse. Acumen Fund, per esempio, ha investito su 30 aziende in Asia e Africa. La sfida è la venture philanthropy, un ibrido tra meccanismi di mercato e fini sociali, per uno sviluppo sostenibile. Allora, spiegami la venture philanthropy e poi andiamo oltre. Sì, è investire sui beni comuni. Quindi, cioè, tradotto è quello, cioè è puntare sui beni comuni. Sì, è anche un po' l'idea che delle attività che hanno dei risvolti sociali e quindi un impatto positivo sul contesto sociale possono generare profitto. Ti faccio un esempio rapidissimo. In India ci sono delle organizzazioni che distribuiscono l'acqua potabile e lo riescono a fare adesso in zone rurali dove prima non arrivava nessuno e riescono a trarre profitto da questo. Si finanziano da sole e quindi gli aiuti umanitari in quel caso non servono e se la cavano benissimo da sole. Comunque di questi temi noi torneremo a parlare, se non questa settimana, nel corso della prossima, sempre con Luca Dell'Oiaco. Intanto io introduco Pierangelo Soldavini, che ha una splendida copertina di Nova 24 che uscirà domani in edicola col Sole 24 Ore, dal titolo curioso e leggiadro Dati per buoni. Sì, che è un argomento che non c'entra apparentemente molto con quello di cui stavamo parlando, però coglievo alcune cose di cui dicevamo, cioè sono dei beni comuni, cioè prima tutto è un bene comune, internet è il bene comune per eccellenza, mette insieme persone, dati, informazioni, e quello che siamo andati a vedere è come i dati, se sono disponibili su internet, possono essere connessi tra di loro, messi in relazione, soprattutto per quanto riguarda i dati pubblici, i dati delle pubbliche amministrazioni, e diventare dei servizi profit o non profit, in questo caso, per le persone. Sì, l'ha fatto Barack Obama, ma noi ci domandiamo perché non potremmo farlo anche noi. Cioè, tutte le tutto il pubblico, insomma, le scuole, i comuni, tutti le regioni, i dati pubblici, l'informazione pubblica, liberi, che possono fornire delle informazioni, ovviamente con la limite della privacy. Facciamo un esempio al volo: se non so, l'ATM o chi gestisce il traffico urbano potesse rilasciare i dati relativi appunto al traffico in real time, io privato potrei studiare un'applicazione per sapere quando passa l'autobus sotto casa. Magari non vivo in una zona splendida e questo può essere un aiuto. Ma questo è già successo in America, in Canada, così è stato possibile fare servizi di questo genere. Noi andiamo a vedere un po' i modelli che poi racconteremo anche l'iscrizione delle scuole, l'iscrizione del figlio a scuola attraverso Skype e Google, insomma. Sono anche in campo Tim Berners-Lee in Inghilterra per difendere questa idea, cioè dei dati pubblici come bene comune. Insomma, noi lanciamo questa idea, ci crediamo, vediamo di capire se, certo, ci sono delle complessità. Noi nella copertina di Nova andiamo a analizzare quelli che sono gli ostacoli a livello giuridico e organizzativo, però insomma, se non si ha un po' di coraggio. Posso dire una cosa, uno slogan anche in questo campo: la trasparenza paga alla fine. La trasparenza paga, dovrà confrontarsi con i temi della privacy. Comunque, insomma, la materia è complessa, ma assolutamente interessante, anche perché emergono delle figure di innovatori pubblici. Noi siamo abituati a pensare al pubblico come un settore grigio, invece è tutt'altro che così, anche in Italia, soprattutto in Italia. Il 18 maggio inizia il forum PA, che raccoglierà un po' tutti questi innovatori a Roma. Ci sarà anche un bar camp, che è insomma una novità assolutamente nuova, non è male, però insomma è un dato nuovo per questo tipo di eventi. E quindi diciamo che abbiamo finito in serenità con la voce che mi stava andando via, per cui io ringrazio Luca Dello Iacovo, ringrazio Valerio Melandri che è stato in collegamento con noi. Grazie a voi. Grazie a voi e ringrazio soprattutto Pierangelo Soldavini, vice carbatore di Nova. Arrivederci. Arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.